Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Sbagli, essendo un bel giovedì primaverile, siamo in primavera, Luca? Quasi, ma non ancora. In realtà siamo nei giorni della merla, dovrebbero essere quelli più freddi. Sì, mi sa che lunedì è il giorno della merla o domenica o lunedì. Prepariamoci. Ah no, domenica lunedì è la Candelora. Allora forse i giorni della merla sono già passati, O stiamo sì. qua. Comunque pure che gennaio fa caldo e c'è il sole. Allora, anche se fa caldo e c'è il sole, noi non ce ne andiamo in Jamaica Star, ma rimaniamo nel nostro mondo. Sì, oggi ci focalizziamo un po' sul jazz, ma il jazz quello elettronico. E infatti anche il jazz, diciamo, è stato influenzato sia dalle musiche, insomma, che negli anni andavano in voga. Pensiamo per esempio alla metà degli anni 60, al rock psichedelico, che ha influenzato il jazz, ma anche il jazz ha influenzato, insomma, il rock e le altre musiche, ma anche l'innovazione poi di strumenti tecnologici che negli anni andavano via via a essere scoperti e quindi poi importati anche nel jazz e dai musicisti. Pensiamo per esempio al 1906, è l'anno del telarmonium di Thaddeus Kyle, ossia il primo sintetizzatore. Vabbè, noi cominciamo un po' più avanti, non cominciamo dal 1906? Sì, e iniziamo in realtà poi da qualche anno dopo, dal 1935, quando venne scoperto l'organo Hammond, e si è dovuto aspettare il 1956, quando un grande Jimmy Smith l'ha messo nel mondo del jazz. E a proposito di freddo, questo pezzo si intitola Baby It's Cold Outside ed è la coppia Jimmy Smith all'organo Hammond e Wes Montgomery alla chitarra elettrica. We'll be right back. Vi ricordiamo che è uscita la Scarceranda 2020 col quadernino, quest'anno è bellissima come tutti gli anni, floreale. Vi ricordo anche che la radio non campa d'aria come nessuno d'altronde, ma la radio ha un sacco di spese, quindi c'è bisogno del contributo di tutti quanti e di tutte quanti. Quindi abbonatevi, sul sito trovate tutti i dettagli. Si può fare pure il bollettino postale, il numero di conto postale è 61804001. Lo ripeto, conto postale numero 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56, 00185, Roma. Diciamo che col jazz elettrico si sono dedicati in tanti, anche lo stesso Miles che stiamo per andarci ad ascoltare. Sì, in realtà Miles come sempre ha fatto da apripista per quel mondo psichedelico introdotto nel jazz, quel jazz che poi si chiamerà anche jazz rock o anche fusion negli anni 80, insomma, ma a noi ci piace chiamarlo jazz elettrico. Miles Davis uscirà con l'album manifesto Bridge Brew nel 1970, ma noi ci ascoltiamo l'album che ha preceduto quel disco, 1969, In a Silent Way. E come sempre nei gruppi di Miles, la formazione è davvero stellare. Miles Davis alla tromba, Herbie Hancock, Chick Corea e Joe Zawinul al piano elettrico, Wayne Shorter al sax tenore, Dave Holland al basso, John McLaughlin alla chitarra e Tony Williams alla batteria. Questo è il brano che apre questo splendido disco. Shh, Peaceful. Thank you. strumenti elettronici che poi si dividono in due categorie: gli strumenti elettromeccanici, ossia a vibrazioni iniziali prodotte meccanicamente, come la chitarra elettrica, il violino elettrico, il violoncello elettrico, esattamente, e poi invece ci sono gli strumenti a vibrazione esclusivamente elettroniche, come i sintetizzatori o le tastiere, per esempio, anche o i piani elettrici o anche il l'organo Hammond. Allora, il brano dura 18 minuti, quindi forse è giunto il momento di tagliarlo. Anche se è molto piacevole all'ascolto. È dura, è dura. E allora, come detto, il disco in questione si chiamava In a Silent Way, che è un brano scritto da Joe Zawinul. E allora noi ci ascoltiamo proprio In a Silent Way, da un disco di Joe Zawinul, si intitola Zawinul, uscito l'anno dopo, 1972. E qua vede pure due piani elettrici, uno Joe Zawinul e l'altro ancora Herbie Hancock. E passiamo all'artista che forse più si è sperticato nel jazz elettrico, stiamo parlando di Herbie Hancock. Sì, sì, lui l'ha fatto da padrona per tutti gli anni 70, anche 80 in realtà. Però questo è un album del 1969, forse è l'anno d'oro, diciamo, per il jazz elettrico. E l'album si intitola Fat Albert Rotunda, uscito per la Warner Bros. E tra l'altro registrato da Rudy Van Gelder. E fra gli altri compare anche uno splendido Joe Henderson al sax tenore, e al contralto e al flauto. Noi ci ascoltiamo la traccia d'apertura, Wiggle Woggle. We'll be right back. Adesso passiamo a due pianisti classici, uno appresso all'altro, ma che si sono dilettati col piano elettrico anche. Sì, sì, negli anni 70 pure loro sono passati. In realtà il primo, Jarrett, aveva già fatto parte del gruppo di Miles Davis, i gruppi quelli elettrici, quindi insomma era già più familiare a certe sonorità. Poi insomma, piano elettrico che ha abbandonato. Anche se poi Jarrett è famoso per il piano classico. Sì, sì, poi da lì in poi comunque ha continuato la sua carriera in maniera acustica, e di cui ha accompagnato da un altro musicista, anche lui insomma nel gruppo di Miles, soprattutto poi nel trio di Jarrett. Parliamo di un disco in duo, appunto, con Keith Jarrett al piano elettrico, all'organo e anche al flauto, e Jack DeJohnette alla batteria. Il disco del 1973, uscito ovviamente per la ECM, si intitola Ruta e Daitia, e noi ci ascoltiamo You Know, un brano a firma di Jarrett. Thank you. spesso la critica, il pubblico, insomma anche molti musicisti hanno dato prova di una certa fobia verso la tecnologia, insomma, dato che i suoni elettronici erano spesso associati alla musica commerciale. Però ancora bisogna anche ricordare che la maggior parte della musica jazz che si ascolta è già elettronica nella misura in cui viene registrata. Beh sì, certo, gli studi moderni sono tutti quanti digitali, ormai è difficile trovare studi analogici, anche se esistono ovviamente, però sono perle. Io a questo proposito vorrei salutare la tribù acustica. Un ritorno all'acustico. Sì. Io invece, a proposito di strumenti acustici elettronici, insomma, io ricordo un concerto di Joe Henderson a Villa Cilimontana. All'epoca era Villa Cilimontana, iniziarono a suonare, ma dopo pochi minuti andò via luce in tutta la zona, quindi si bloccò tutto, ristoranti, le luci proprio stesse, era tutto al buio, ma loro continuarono a suonare in quanto era un quartetto solo acustico e ovviamente aveva una magia particolare, magia anche che ha voluto ricreare Abdullah Ibrahim togliendo i microfoni dal pianoforte nella sua ultima esibizione al Roma Jazz Festival. Passiamo all'altro pianista. Sì, Oscar Peterson, ebbene, pure lui ci ha messo un po' di più, perché quest'album del 1979 si intitola Night Child, uscito per la Original Jazz Classic, e qui vede anche Joe Pass alla chitarra, ma Oscar Peterson che si diletta con il piano elettrico. Ci ascoltiamo la traccia che chiude questo disco, Teenager. praticamente funky per Oscar Peterson. Eh sì, gli anni 70 insomma risentono ovviamente dell'influenza del funk. E passiamo a Sonny Rollins, anche lui insomma non è stato immune dall'usare strumenti elettrici, e qua soprattutto in questo disco Next Album uscito nel 1972 vede George Cables al piano elettrico, Bob Cranshaw al basso elettrico che poi lui si porterà per anni al suo fianco, Jack DeJohnette alla batteria e Arthur Jenkins alle percussioni. Ci ascoltiamo il brano d'apertura, Playing in the Yard, Sonny Rollins. Oh, Allora passiamo all'ultimo brano in scaletta per questa puntata di Attica Blues sul jazz elettrico. Loro sono i Weather Report, dal loro disco Heavy Weather. Eh sì, e qui parliamo probabilmente del gruppo più importante per quel che riguarda il jazz elettrico, fondati nel 1971 da tutti i musicisti che più o meno gravitavano nell'orbita di Miles Davis. Questo invece è un disco del 1977, quando già Jacob Astorius aveva rilevato Miroslav Vitus. E i protagonisti sono ancora Joe Zawinul e Wayne Shorter, che erano i fondatori di questo gruppo, appunto Pastorius al basso elettrico, Alex Acuna alla batteria e Manolo Bandrena alle percussioni. Ci ascoltiamo un brano famosissimo che riprende anche il nome di un locale storico della 52esima di New York. Questa è Birdland. I trillini sul jazz sono una cosa che solo a Radio Onda Rossa è possibile. 06 49 17 50, lo stesso numero telefono da più di 40 anni, quindi noi rimettiamo da capo questa Birdland. Se vi siete messi all'ascolto solamente adesso degli 87.9 di Radio Onda Rossa, vi ricordo che trovate il podcast di questa, come di tutte le altre puntate di Attica Blues, sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info.